No, non è colpa di... No, no. È colpa degli spazi. Perché io vorrei vedere, farti stare te 6 ore in un posto, ascoltare uno che parla. Vabbè. E te sei contenta? E allora, t'hai visto? Te sono contenta. Ma sì. Però no, io sto parlando... No, perché poi c'è da fare un discorso. Un conto sono i bambini, un conto sono già le ragazzine. Sì, però già, cioè, voglio dire... Vabbè, che cazzo vuoi dire? Perché... Vabbè, te che hai ragione, dai. Però una cosa, scusa, questa cosa degli spazi. Anche perché le città sono diventate anche invivibili, cioè voglio dire. Perché io mi ricordo quando ero piccolo io, andavi fermo con la bicicletta, eri in giro, 3 macchine a Biagras, andavi in giro, che sta attente, cioè, voglio dire, le nostre strade, no, è inutile che te ride, te le sci, Io tante volte smetto le lezioni e gli faccio fare dei giochi tra di loro. Crescono molto più giocando tra di loro che magari raccontando, crescono molto di più. Cioè i loro spazi. Vabbè, però comunque se andare a parlare di Santo Pollastro. Beh, Santo Pollastro era contro il potere dalla scuola. Però comunque vabbè. Io non vorrei, adesso io mi rendo conto di forse avere una visione delle cose particolare, però credo che serva anche ascoltare qualcosa che esuli dai meccanismi mentali tradizionali, insomma, non so, cioè, come dicevo prima, per me appunto la libertà non è, come diceva Gaber, vabbè, persona grande, partecipazione. Per me la libertà è proprio un discorso del moscone che lui diceva, è il moscone che vola sui rami, questa è la libertà per me. Perché io anche se partecipo e sono dentro una galera, che cazzo me ne frega di partecipare? Sono sempre lì. Però vedi, quanti anni hai? Tu puoi migliorare, io con 50 anni che cazzo migliori, io ormai li finì, Ale! Io partei, arrivo un giafon che da veda. Vedi? Comunque la situazione, però magari forse se andava sulla riva del Ticino, magari trovava. Ma vieni qua, dai, facciamo il dibattito, dai. Vieni qua col microfono. Oh, mica capisci più niente. Non capisco niente. No, non sento più niente. È giusto, dai, ognuno ha le sue idee. Allora. Ognuno può avere le sue idee, ma se ognuno pensa soltanto al sorticello, non si va da nessuna parte. Se parliamo problema è che mi cura anche più l'Ort. Dove cazzo? Scusate fa, scusate di. No, vabbè, magari sono, cioè, io mi rendo conto. Allora, io sono faccio il moderatore. Ma sei moderato? No. Allora, l'ho scritto, ripeto, torno a ripetere quella che è una banalità, ma tutti penso la possiamo condividere. Lo scrittore pone delle questioni e per porre una questione non può fare delle riflessioni, cioè non fa delle riflessioni filosofiche, altrimenti il libro non avrebbe un interesse, altrimenti il suo modo di vivere il personaggio avrebbe interesse. Il libro è una provocazione. Grazie. E il suo pensiero, il suo modo di essere è una provocazione. Sì, è vero. È il classico moscone che ti gira intorno e tu ti poni delle domande, cioè ti poni in discussione, cioè, se non altro. Come ti chiami, scusa, come ti chiami te? Come? Beatrice, il discorso è questo qua. Tu hai perfettamente ragione dal tuo punto di vista. 18 anni, cazzo, sei giovane, è tutta la vita... No, non voglio fare il moralismo, il paternalismo, tutta la vita avanti, però è tutta la vita avanti. Però vedi, Beatrice, quello che io mi sono sempre posto è più vado avanti negli anni, più sento questa cosa qua. È il problema non tanto della compatibilità, della responsabilità, non tanto queste cose, è il problema della felicità. Questo è fondamentale. Ma sì, ma questo sicuramente, voglio dire, ecco, se magari vai sul Ticino ne trovi meno di persone, se stai a Milano ne trovi di più. Se lo devi dire. Ma sì. No, però è vera. No, vabbè, ma te hai ragione, Patrizio, lo devo dirti. Cioè, tu sei arrivata a questa consapevolezza, è giusto che tu porti avanti questa cosa qua. Sì, ma io adesso. Va bene. Allora, lui rimane qua. Se volete. Tutta notte. No, io. No, adesso a parte gli scherzi. Chiudiamo qui la presentazione formale ufficiale. Là in fondo ci sono dei libri, se volete, li abbiamo portati, se volete comprarli, sfogliarli, leggerli. Gli altri suoi libri vecchi, non lo so, un giorno, quando questo venderà 100.000 copie, riediteranno anche quelli. Per il resto, niente, vi ringrazio di averci ascoltato e va bene. Alla prossima. Lui comunque, se volete, rimane ancora qua. Cos'è il botto? Questa è una botta.